Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Mighty FM. Chi vi parla dagli studi di Radio Kairos, sempre Claudia Mighty Mau, per parlare di un evento molto molto atteso nella stagione musicale e soprattutto nella stagione primaverile e estiva, ovvero il Primavera Sound Festival. Nato a Barcellona ormai da tanti tanti anni, per il quinto anno si svolgerà nella cittadina del nord del Portogallo, ovvero Porto, seconda città del Portogallo, e noi per la quarta volta di seguito vi andremo, e quindi è il periodo dell'anno in cui noi facciamo sempre il nostro specialone, anzi due, questo è il primo di due, che coprirà tendenzialmente la prima e la seconda giornata. Chi non sa come si svolge il festival, beh, diciamo che la prima giornata è di tutto riposo, solo 8 live e due palchi principali che si alternano, quindi non ci sono problemi di sovrapposizione. Come dico sempre, uno potrebbe sedersi in mezzo e se non ci sono alberi, cespugli, guardare una volta di qua, una volta di là, come se fosse una partita di ping pong. E chi è che apre le danze, non nel senso di orario, ma non avendo ancora gli orari di esibizione, cioè possiamo capire che qualche gruppo sia headliner e qualche altro invece sia un gruppo minore che aprirà la programmazione, ma non avendo ancora questi dati ci affidiamo come sempre all'alfabeto che non tradisce mai, e quindi il nome primo in ordine alfabetico del primo giorno, ovvero giovedì 9 giugno 2016 al Park da Cidade, saranno gli Animal Collective. Collective, beh, non hanno bisogno di presentazione. Nel febbraio di quest'anno hanno pubblicato un nuovo album, Painting With, e questo è uno dei due singoli finora estratti già dall'autunno scorso, ovvero Floridada. Tutti i soprannomi per questo gruppo strambo, e che ho pensato oggi, forse in modo inappropriato, che potrebbero essere degli equivalenti dei Beach Boys dei nostri tempi, o forse anche addirittura di domani, visto il gusto per la psichedelia e che probabilmente l'uso di sostanze, anche la marijuana, viene nominata in questa canzone. Anche se però ascoltando il disco non riesco tanto a distinguere l'impronta di Panda Bear e dei suoi lavori rispetto al resto, se non per una indole un po' più pazzerella e magari meno un po' introspettiva e malinconica. Passiamo al secondo nome in ordine alfabetico, e direi anche non in ordine di grandezza, no, perché ce n'è un altro dopo, che nella prima giornata, che è insomma anche molto atteso, insomma sono i nostri cari Deer Hunter, guidati da Bradford Cox e Locket Punt. E non dimenticheremo mai che l'ultima volta che l'abbiamo visti, nelle tante ormai svariate volte, ormai è stato il 13 novembre, e proprio mentre li guardavamo al Bronson di Ravenna arrivavano notizie tramite Jonathan Clancy, che era vicino a me, mi raccontava quello che stava succedendo al Bataclan. Questa è la bellissima All the Same. Già da questo disco Fading Frontier, sempre ed è uscito nell'autunno scorso, avevamo già sentito la bellissima Living My Life in un'altra trasmissione, e questa invece appunto è All the Same. Altro grande nome della prima giornata del Primavera Sound di Porto. Ricordiamo che il Primavera Sound è una versione molto molto più piccola, diciamo più o meno un terzo degli artisti, se non meno, che rispetto a quelli del mastodontico ormai Festival di Barcellona. E quando escono i nomi di Barcellona, sempre un paio di settimane prima di quelli di Porto, si incrociano le dita sperando che i nostri beniamini saranno anche a Porto, e così è stato per nome più atteso per me personalmente. Non a caso è stata l'artista a cui abbiamo voluto dedicare la prima puntata di questa nuova stagione. Era Julia Holter con Have You in My Wilderness, e questa è la bellissima She Calls Me Home. Thank you. Julia Holter si esibirà nella prima giornata del festival e quindi un altro timore era che si potesse sovrapporre a qualcun altro. Invece, come ho detto, nella prima giornata i concerti, pochi concerti che ci sono, si alternano nei palchi principali. Nos a fianco al Superbock, senza, cioè, non crediamo che ci siano variazioni di nuovo quest'anno. Come dicevamo, noi siamo delle affezionate partecipanti, insomma si è creato un po' un gruppo di abitue con Ana, con Olivia, poi c'è qualcuno che un anno sì viene, un anno no, nuovi arrivi. E un nuovo arrivo al Primavera sarà anche quello degli attesissimi Parquet Courts, sono dei, diciamo, indie darling, Pitchfork darling, gruppo newyorkese fondatosi nel 2010. Hanno fatto anche loro appena adesso un disco. Mi piace molto questo pezzo perché mi ricorda tantissimo i Pavement. Questa è Already Dead e l'album si chiama Human Performance. Parquet Courts, pupilli dei Pitchfork, tant'è vero che anche questo disco Human Performance ha avuto un 8.4, il bollino di Best New Music, a volte una voce che sembra Malkmus, a volte che sembra Burn, per questo quartetto composto da Andrew Savage, Austin Brown, Son Eaton e Max Savage, e ci riguarderemo con piacere. Questo invece è un gruppo che non sarà a Barcellona, come dicevo, il programma di Porto è più o meno di un terzo, se non meno, del mastodontico enorme programma di Barcellona. Ci sono tutti quelli che suonano a Porto, suonano anche a Barcellona, a parte qualche piccola differenza di gruppi spagnoli e o portoghesi. In questo caso la presenza portoghese e la rappresentanza nella prima giornata è data dai Sensible Soccers, proveniente dal nord del Portogallo. Il loro bandcamp è molto scarno, non ha molte notizie, dice solo che loro sono Felipe, Manuele e Hugo. Hanno appena pubblicato a febbraio un secondo album, si chiama Villa Soledad, e questo pezzo molto molto bello si chiama Bolisol, ma anche notevole Nunca Mais Me Esqueces. E è curioso come come questi suoni richiamino tantissimo stessi suoni esplorati e sviluppati da White Nothing, come abbiamo potuto sentire nella nostra puntata speciale fatta poco tempo fa e come sentiremo anche tra poco, non magari nel pezzo che abbiamo deciso di passare, perché ovvero ci sarà anche White Nothing al Primavera Sound di Porto, ma insomma come se ci fosse insomma il suono del di questo momento, di questa epoca, di questa era, lo Zeitgeist, e quindi Bolly Soul, Nunca Mesh Mesh Kiss, soprattutto l'inizio, ricorda moltissimo i suoni influenzati da, anche secondo me, dei suoni anche molto un po' africani, comunque del sud del mondo. Sensible Soccers, Bolly Soul. Finisce Bolly Soul e Sensible Soccer, tutti i pezzi strumentali per questo album Villa Soledad è molto gradevole, come sono solita dire, ma dicevo prima, headliner Animal Collective, sì, ma anche Sigur Rós, attesissimi, credo, dopo l'ultimo album che ormai è del 2013, Kveikur, questo era uno dei suoi singoli, dei due singoli tratti dall'album, Isiaki, per questo nuovo tour dove proveranno nuovi pezzi, nuova musica in prospettiva forse di un nuovo album, noi fa sempre piacere vederli, ecco, non ci andremmo apposta ormai a vederli Sigur Rós, però siamo contente che facciano parte del cartellone Primavera Sound Porto. Yeah. Ghiacchi, Sigur Rós, tratto dall'ultimo album in studio del 2013, Kveikur. Come dicevamo, noi abbiamo cominciato a preferire da quando esiste la versione portoghese di questo festival, dal 2012, il primo l'abbiamo mancato, ma dal secondo non siamo mai più mancate, a quella spagnola, catalana, sarebbe meglio dire, poiché ci sono andata una volta nel 2010, l'ho trovato oltremodo faticoso e poi sì, tutti quei nomi ti fanno venire l'acquolina, ma poi dopo la prova dei fatti ti stanchi un casino e riesci a vedere un terzo di quello che è in programma. Allora tanto vale andare ad un festival dove c'è un terzo del programma di Barcellona, ma riesci a vedertelo comodamente, anche perché le distanze tra i palchi sono veramente piccole. Sì, magari si fa un po' fatica perché il Parco da Cidade, che è al confine della città di Porto con Matosinhos, che diciamo che è il sobborgo oceanico della città, è un vero e proprio bosco, parco scosceso con colline, arbusti, boschetti, laghetti, però appunto è un contesto assolutamente piacevole e rilassante in generale. L'ultimo nome, anzi penultimo nome della prima giornata è una signorina bella sghemba. Se non è sghemba lei, non lo è nessuno, è Meg Remy, classe 85 di Chicago, che ha fatto diversi dischi, tra cui il molto acclamato Jam, fa parte della famiglia 4AD, quindi voglio dire, ci siamo capiti, e nel 2015 ha pubblicato un nuovo album, si chiama Half Free, di cui ora stiamo ascoltando Sororal Feelings. Finisce Sororal Feelings di US Girls, nome d'arte di Meg Remy. Notevole anche nell'album Half Free il pezzo Woman's Work, e siamo passati, appunto l'avevamo già preannunciato, i nostri altri beniamini White Nothing, a cui poche settimane fa abbiamo dedicato una delle nostre monografie, a Life of Pause, nuovo disco del 2016. Era la 13ª puntata di Might FM, 7ª stagione, questa è la 16ª. Lui è Jack Tatum e questo è uno dei pezzi che forse ricordano, tra le varie sperimentazioni, esercizi di stile, influenze di Reich, influenze di varie epoche e vari stili, diciamo forse il pezzo più in linea con i lavori precedenti, soprattutto Nocturne di Wild Nothing, e si chiama TV Queen. We'll be right back. Baby Queen, What Nothing, il genio di Jack Tarum, che però vabbè dal vivo diventa un gruppo di sei elementi. Per questo album Life of Pos, che a noi di Might FM è piaciuto tantissimo, quindi siamo molto contenti di vederlo per la seconda volta al Primavera, per la terza volta in assoluto. E un altro nome familiare ormai, non so, dal 2010, appunto la prima volta fu a Barcellona al Primavera nel 2010, l'avremmo viste chissà almeno 4-5 volte. Sono i Beach House, Victoria Legrand e non mi ricordo più il nome, Skelly è il cognome, che nel 2015 hanno fatto il colpaccio, hanno pubblicato due album, uno a distanza di qualche mese dall'altro. Il primo era Depression Cherry, il secondo Thank Your Lucky Stars, e finalmente ho l'occasione di mettere, perché l'altra volta avevamo sentito Majorette nella puntata dedicata sempre a What Nothing, in rappresentanza insomma della scena Dream Pop alla quale parzialmente appartengono anche Wild Nothing, soprattutto perlomeno all'inizio, ho la possibilità di mettere un pezzo secondo me veramente grandioso, e quando arriverà l'assolo, il pezzo insomma di chitarra, io sarò invisibilio, è la bellissima Elegy to the Void. Alex Kelly, e non ho detto che questo pezzo è tratto dal ultimo in ordine cronologico lavoro, appunto Thank Your Lucky Stars. To the Void, Beach House, come in altri casi purtroppo volendo farci stare veramente tutto, e in questo caso proprio la metà della programmazione generale del Primavera Sound di Porto, abbiamo dovuto un po' editare questo bellissimo pezzo, ed ecco come dicevo la chitarra di Alex Kelly. Thank you. dire anche più audace del solito, si sente alla fine della frase musicale, nel giro insomma di chitarra, insomma non sono una musicista, non lo so, questo suono di chitarra molto stridente, un po' mi immagino come fa Thurston Moore con uso di strumenti vari, e bacchette, archetti, eccetera. E sono i Beach House e, come dicevamo, non sappiamo gli orari di esibizione delle giornate, sappiamo la divisione per giorni, ma non l'orario di esibizione delle giornate, quindi ci basiamo sul nostro caro vecchio ordine alfabetico, anche perché qui la situazione si complicherebbe, visto che dal secondo e terzo giorno si aprono anche gli altri due palchi, di solito l'All Tomorrow's Parties, ATP, e il Pitchfork Stage. E quindi partiamo, siamo partite dall'ordine alfabetico con i Beach House e passiamo ad un progetto molto molto interessante, esiste già da diversi anni, progetto parallelo di Geoff Barrow e Portishead, BIC, scritto in maiuscolo col segno di maggiore, che diciamo rappresenta un becco stilizzato, album omonimo già nel 2009, seguito da un doppio becco nel 2012, e adesso è appena uscito, adesso nel 2015, uno split EP tra le due anime. Non contenti di giocare con appunto simboli e segni, questo split EP si divide tra due pezzi dei BIC e due pezzi dei KEAB, ovvero l'opposto, e come BIC è seguito dal simbolo del, diremmo, maggiore, KEAB è preceduto dal simbolo del minore, e che rappresenta un po' l'alter ego folk di questo gruppo, un po' invece influenzato dal kraut rock. E quindi abbiamo pensato semplicemente di mischiare un pezzo dei BIC, The Matter, con un pezzo dei KEAB, ovvero When We Fall. Non potevamo non mettere un pezzo in rappresentanza di questo alter ego folk, questo bellissimo pezzo When We Fall, sebbene brevemente, in questo split EP del 2015. Saremo molto contenti di vedere anche i BIC, e anzi siamo anche un po' atterrite, perché sì, al secondo e terzo giorno ci sarà il rischio di sovrapposizioni, e io, guardando anche il programma di questa giornata, ci sono veramente due o tre nomi che potrei sacrificare, per il resto sarà insomma una gara dura, è questa la croce e delizia dei festival. Come dicevo, copriremo in questo primo speciale la metà esatta della programmazione totale, che vede 48 band e artisti, quindi copriamo la prima giornata, abbiamo già smaltito, siamo a venerdì 10, siamo partite con i Beach House, abbiamo proseguito con i BIC e stiamo andando avanti con uno dei pochi nomi, perché se c'è una differenza vistosa tra il programma di Barcellona e quello di Porto è che è più dedicato al rock o al noise o al punk o al post-punk o alla, al prog rock, diciamo più musica da rocker adulti. Infatti non mancano mai, diciamo, gli artisti più âgé e non mancano mai nella versione portoghese del Primavera Sound, e come invece sono pochi, diciamo, i nomi che coprono la sezione clubbing, ma uno di loro è sicuramente quello di Marea Stamper from Kentucky, in arte The Black Madonna, un'anima nera, un'anima house, sebbene sia una bionda cicciottella quasi albina, molto molto chiara, e che ha condiviso, condivide con un nome come quello di Frankie Knuckles il ruolo di resident, il famosissimo Smart Bar di Chicago, patria dell'house. E il pezzo che stiamo ascoltando, sempre un edit di uno dei suoi pochi comunque singole pubblicazioni, questo è del 2014, era un singolo, si chiama Stay, e l'altro pezzo che conteneva era Venus Requiem del 2014 e The Black Madonna. Tutta una giornata di indie pop rock post punk eccetera eccetera, sarà comunque piacevole rilassarsi un po' nella notte con The Black Madonna. Come dicevamo, questa puntata ascoltiamo 24 dei 48 partecipanti al festival, quindi copriamo quasi tutto il secondo giorno. Rimarranno fuori 4 nomi con i quali noi apriremo il secondo speciale successivo la settimana prossima. Stiamo procedendo con l'ordine alfabetico, in questo caso una piccola eccezione perché in programma abbiamo Brian Wilson performing Pet Sounds, come già ci è capitato nel 2004 a Benicassim. Sono andata a controllare che non fosse il 2006 per il quarantennale, e invece no, era il 2004, ma invece quest'anno ci becchiamo il 50° anniversario di quel capolavoro assoluto che è Pet Sounds, The Beach Boys, e soprattutto in quest'anno in cui, con ritardo devo dire, esce nelle sale un film dedicato alla vicenda umana e artistica di Brian Wilson, Love and Mercy, dove lui viene interpretato da giovane da Paul Dano, da adulto da John Cusack, e potevamo scegliere uno dei pezzi un po' più meno famosi, che non vengono mai suonati, nominati in tutte le varie recensioni. Invece no, ci piace vincere facile e abbiamo scelto la dolcissima God Only Knows. Your life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Mama. should ever leave me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. And God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be. Lavoro della mente di Brian Wilson in quell'epoca, abbastanza disturbata, ossessionata anche dall'uso di droghe. D'altra parte erano gli anni d'oro della psichedelia. God Only Knows, Beach Boys, Pet Sounds, registrato nello storico studio di Los Angeles East West, dove coincidenza hanno anche registrato almeno in parte l'ultimo album, proprio gli Animal Collective. Ma andiamo avanti con Cass McCombs, rappresentante della scena country folk americana, ma anche insomma punk rock and blues, molto molto prolifico. Ha raggiunto insomma successo con Catacombs di qualche anno fa e adesso ha pubblicato per la Domino comunque un album di rarità e B-sides e folk set apart. E tra i vari stili diversi, quello che ci è piaciuto di più è questa scoppiettante Evangeline. Evangeline, tratta da A Folk Set Apart, rarità e B-sides di Cass McCombs, super prolifico musicista americano country folk, esponente della scena definita americana. E continuiamo nell'ordine alfabetico e siamo arrivati a Destroyer, nome d'arte dell'attività solista di Dan Bejar, altrimenti membro dei New Pornographers. E per uno che si chiama Destroyer, che ha fatto un altro disco prima di questo, si chiama Caput, i suoi suoni invece sono molto molto morbidi e patinati. Part- sentendo da questo inizio una canzone d'amore dedicata a Times Square che ricorda tantissimissimo Young Americans. Jesus is beside himself. Per un album, Poison Season, uscito l'anno scorso, che appunto la sua personale reinterpretazione dei suoni classici degli anni 70, appunto da Bowie e Reed, ma anche a Springsteen, come un altro pezzo dell'album. Dream Lover. E questa è la bellissima Times Square, Destroyer. Hand in hand through the great doorway at dawn. The writing on the wall said Jesus saves. The writing on the wall mentions honey playing a game with the waves. You can follow a rose wherever it grows, so you could fall in love with Times Square. Tra l'altro ha una voce che io proprio sento anni 70, ricorda tantissimo quella di Al Stewart. E poi vabbè, il sax. Destroyer, ovvero Dan Bejar, definito da Pitchfork uno degli artisti che ti danno più soddisfazione a livello intellettuale, questo linguaggio molto raffinato, tant'è vero che i suoi fan avevano prodotto, come a volte succede, un generatore automatico di testi di Dan Bejar. Indie rock, most rewarding intellectual project, ma forse voleva dire most intellectually rewarding project. Ma siamo passati ai Dinosaur Junior e in loro rappresentanza, visto che comunque di dischi dopo Iberon Sky sono diversi anni che non ne fanno di nuovi, abbiamo deciso, e la dedico ad Olivia, di far sentire questa collaborazione tra Jay Mashes e Kim Gordon, fatto l'anno scorso per un EP della Converse, Cons volume 3, e questo è Slow Boy, chissà di chi parlava. è questo pezzo indemoniato di Jay Gandalf Meshes insieme a Kim Gordon per una compilation della Converse Cons volume 3 EP del 2015, Slow Boy in rappresentanza di Dinosaur Jr., che l'ultima volta infatti l'abbiamo vista nella penultima edizione scorsa al Primavera Sound di Porto. E un altro nome che siamo contentissimi di aver ritrovato in cartellone, una delle nostre beniamine degli ultimi mesi a cui abbiamo dedicato appunto in questo autunno una puntata, è la giovanissima Lorelei Rodriguez, figlia di immigrati honduregni, cresciuta in America nell'area di Los Angeles e poi emigrata musicalmente a Brooklyn, ma adesso è tornata a Los Angeles. Ha debuttato l'11 settembre con un bellissimo album appunto a cui abbiamo dedicato la nostra monografia, ovvero Me. Abbiamo avuto il piacere di ballarla e vederla in supporto ai Purity Ring lo scorso novembre a Milano. Siamo contentissimi di rivederla e abbiamo deciso di suonare uno dei pezzi, uno dei singoli tratti da Me, Standard, unito però con un bellissimo remix che abbiamo scoperto ieri ad opera di un artista R&B della scena di Atlanta che fa della musica dance molto molto anni 90, molto figa. Lei si chiama Abra e questa è Standard. Questo remix spacca. Abbiamo scoperto proprio la notte scorsa ad opera di Abra, Standard di Empress Off, a cui avevo scritto sulla sua pagina Facebook mandandole tutta la scaletta della trasmissione. Lei l'ha vista in ritardo e ha detto oh my god, this is awesome, grazie mille. E lei che è molto molto attiva sulla sua pagina, mettendosi anche molto in gioco personalmente, alla fine è una ragazzina ma è un genio, lei fa tutto, assolutamente tutto, ogni aspetto creativo produttivo della sua musica, e è molto bello, carino vedere 15 secondi di video dove lei è pazza di gioia, balla ascoltando il remix del suo pezzo fatto da Abra, con cui avevano diviso il palco per un piccolo tour in America. E un altro nome che ritorna, che abbiamo già sentito la scorsa settimana, sebbene in altra insomma per un altro motivo, è ancora quello di Floating Points, ovvero il neuroscienziato inglese Sam Shepard, leader di un ensemble, Floating Points Ensemble, di 16 elementi, che finalmente, dopo averlo visto già due volte nel back to back set di 4 ore insieme a Daphne Caribou e Snythe, come sabato scorso dove io ho fatto una bellissima foto non tanto a lui ma ad Damir, che ha riscosso molto molto successo, Damir Ivic, una delle menti più geniali, creative e profonde del panorama musicale, del giornalismo musicale e della produzione di eventi musicali in Italia, che mi ha scritto che ci sarà anche lui al Primavera Sound di Porto quest'anno. Dicevo, Floating Points, abbiamo fatto sentire diversi pezzi già Argenté nella puntata dedicata a Club to Club, perché aveva presentato proprio la notte, la sera della pubblicazione del disco ufficiale, il suo album Eleni al Teatro Carignano di Torino. Poi abbiamo fatto per la puntata scorsa un mix di tre altri pezzi e adesso ne erano rimasti veramente pochi, abbiamo dovuto scegliere e abbiamo scelto, chiaramente facendo un edit, ed uno dei pezzi più delicati dove si possono sentire le influenze jazz di Sam Shepherd, si chiama For Marmish. E sarà bello, speriamo, vederlo finalmente dal vivo e non solo in veste di DJ, dove abbiamo visto una grande propensione, forse in questo momento, per la musica brasiliana, più o meno anni 60-70, nel palco che divide in qualità di DJ spesso e volentieri con, diciamo, suo fratellone maggiore, anche insomma per la passione per le scienze, essendo un matematico, invece Dan Snaith Caribou, ovvero Daphne. Floating Point, Sam Shepherd, dal vivo, speriamo con il suo ensemble di 16 elementi, la Primavera Sound di Porto. Un altro nome che copre l'ambito rap e hip hop, che c'è sempre, abbiamo visto che Kendrick Lamar anche qualche anno fa, lo copre Freddie Gibbs. My roly face, I'm about to cop a automata. Top down on that bitch when I ride by, I feel like fuck the law. Got diamonds in my roly face, I'm about to cop a automata. I said it's steady ringing for Freddie, where your bills at? Teacher told me go get a job, I said with a scale it. Told my Cali plug, wrap a package up, we can mail it. Teacher told me go get a job, I said with a scale it. Said bitch, I'm straight. Freddie Gibbs, che avevamo già conosciuto per una collaborazione tra l'altro molto curiosa con i Cults, che insomma avevano fatto un rework in stile rap di Bad Things dei Cults, duo americano a cui avevamo dedicato le nostre puntate, chissà che fine ha fatto, e invece nel 2015 si è confermato con un album, Shadow of a Doubt, di cui ora stiamo ascoltando Fucking Up the Count. Feel like money. That shit look green to you? Got a dead fucking president on it. I don't give a fuck. Quarter brick, half a brick, whole brick. Hey, nigga, mama kicked me out the house for serving what you stay, nigga. Nickel diamond broke at the I buy my brand new days, nigga. Fuck this broke shit, boy, went straight to robbing. What's the play, nigga? Ran off with this nigga. Work is crucial when you burn a nigga. He might want that back, so bitch, you down to do a murder, nigga. Used to keep that 4-5 on my front seat when I serve a nigga. Nigga, want this work, I hope you down to do a murder, nigga. Sally steady ringing for Freddy, where the things at? Drove a half a ton, dropped it off and not to complain. my DNA, I just can't explain it. Even if I die, tell my enemies I remain. It's a bitch, I'm straight ball. $50,000 in a nigga couch. And never fucking up the count. Bitch, I'm straight ball. $100,000 in my mama house. And never fucking up the count. Bitch, I'm straight ball. Tryna make a million, boy, they take me out. And never fucking up the count. Bitch, I'm straight ball. $50,000 in a nigga couch. And never fucking up the count. Freddie Gibbs, ovviamente abbiamo scelto uno dei pezzi che ci piaceva di più, con questa base molto appunto soul jazz, come anche Kendrick Lamar spesso nei suoi pezzi. E siamo arrivati abbondantemente alla metà della giornata di venerdì 10 Primavera Sound di Porto, come abbiamo scritto nella nostra presentazione sulla nostra pagina Facebook Mighty FM Radio Caross, sul nostro blog mightyfm.blogspot.it, dove si possono trovare tutti gli episodi. E Glass voce? Lasts. Lasts. Glass lasts. Who lasts? Glass lasts. È stata veramente una buona idea quella di creare un altro piccolo Primavera Sound Festival a Porto per, diciamo, catturare un po' il pubblico del nord della Spagna, oltre che quello portoghese, ma anche, direi, anche dell'Andalusia. E promuovere ancora di più una città assolutamente accattivante dal punto di vista geografico, naturalistico e enogastronomico, insomma, la patria del Porto e della francesigna, che noi non manchiamo mai di mangiare. Ma siamo arrivati a un'altra nostra beniamina, la vedremo per la terza volta dopo Robot, dopo il Club to Club. Ci abbiamo anche scambiato quattro chiacchiere in amicizia, amicizia proprio da femmine, da donne. È Holly Herndon. A friendly first. Definita la diva dell'ipertecnologia audiovisuale, fa questi spettacoli veramente mind-blowing, aiutato dalle immagini pazzesche create da Tom Dryhurst, e a volte anche accompagnato come, diciamo, ballerino da Colin Self, anche lui è diventato amico nostro, che però non sempre si esibisce con loro. Insomma, dopo aver sentito Interference, dopo aver sentito, non mi ricordo, Morning Sun, mi sembra, per la terza volta, in realtà quarta, a Mighty FM, ma si trattava dell'album precedente, un altro pezzo tratto dal suo ultimo platform del 2015, si tratta di Locker Leak. Suoi lavori sempre molto politici, molto incentrati sul ruolo delle tecnologie, il ruolo delle tecnologie di controllo, la limitazione della libertà personale, quindi molto legato a tutti i discorsi che possono associarsi a WikiLeaks, a Chelsea Manning. Alla perdita di libertà personale in un ambito sempre più governativo, globale, sempre più preoccupato dalla sicurezza. Claimed and active for such as cash. Iced naturals add to dash over curved plastic pressed in molds. Over curved plastic pressed in molds. For easy shares. Use the bones to recover. Found funds when you feel. For salvage. Salvage cash. Oh. Holly Herndon, non c'è veramente nessuna come lei nel panorama musicale contemporaneo, la vedremo ancora una volta. E come dicevo, la parte della musica elettronica più o meno dance, anche se loro non possono proprio iscriversi tanto in questa scena, però un po' sì, un po' no, è abbastanza limitata al Primavera Sound di Porto. Ma ci saranno anche, insomma, per questo Côté, i Chiasmos, l'abbiamo sentito diverse volte nelle nostre puntate, anche in una dedicata all'Elita di un paio d'anni fa, quando li abbiamo visti, ma vengono definiti un minimal experimental techno duo islandese, e la parte, diciamo, più classico sinfonica è degnamente rappresentata da Olafur Arnalds, e la parte un po' più mossa invece da Janus Rasmussen. Hanno pubblicato un album omonimo e diversi EP, tra cui il bellissimo Looper. Questo invece è l'ultimo in ordine di tempo, come noi sempre tentiamo di fare, far sentire insomma dove sono al punto di vista creativo e produttivo i musicisti che passiamo qui in trasmissione. L'ultima loro produzione è lo Swept EP, e questo è il pezzo omonimo Swept. Duo islandese, quindi seconda presenza islandese dopo Sigur Rós, l'abbiamo ascoltata anche recentemente lo scorso autunno nella puntata dedicata a Rival Consoles, essendo compagni di etichetta sia lo stesso Olafur nei suoi lavori solisti che i Chiasmos, fanno parte della Erase Tapes. E in quella trasmissione avevamo messo uno dei pezzi più vecchi, diciamo, perché contenuto in uno split EP condiviso appunto con Rival Consoles, ma questa invece è l'ultimissima produzione, Swept. Colpo al cuore in questo momento, mi è arrivata la notizia che Prince ci ha lasciato anche lui. Discutibili magari i suoi ultimi lavori e come ha gestito un po' la questione delle nuove tecnologie, togliendo tutti i suoi video da YouTube eccetera, però la sua impronta anche nella nostra adolescenza, insomma anche penso nella vita musicale di un sacco di gente, nella storia della musica, rimarrà per sempre Prince Rogers Nelson. Non c'è più. Una notizia proprio di pochi minuti fa e vabbè. Cancelliamo tutto, sfoghiamo tutto con sano punk grunge, come è stato quello proprio creato dai padri del grunge, ovvero i Mudhoney, che ritornano sulle scene e non potevamo che scegliere pezzo seminale che ha dato un po' il via a tutto nella Seattle della fine degli anni Ottanta, contenuto nell'EP di debutto Super Fuzz Big Muff, era Touch Me, I'm Sick. I'm Sick, Mark Arm e i suoi Mudhoney tornano sulle scene. Io chissà se l'ho visti mai, però sicuramente questo pezzo lo ballavo al Velvet. Sicuramente in quegli anni l'abbiamo cavalcata alla grande, gli anni del grunge. Ma dopo i Mudhoney, una presenza di lingua spagnola che sempre appunto c'è, perché se i gruppi spagnoli sono più numerosi nella versione di Barcellona, arriva sempre comunque qualche gruppo di lingua spagnola anche nella versione portoghese. Loro si sono conosciuti a Barcellona, sono formato a Barcellona nel 2006, ma dal 2008 stanno a Berlino. In realtà sono argentini, sono lei, Carmen Burgess, lui, Thomas Notchev, insieme sono i Mueran Humanos, e tratto dall'ultimo lavoro, Miseres, ci ascoltiamo la title track, anzi no, ci ascoltiamo Un Lugar Ideale. erano humanos e anche Prince Nelson era umano e ci ha lasciato, cioè, una notizia di veramente 20 minuti fa. Pagina Wikipedia inaccessibile per overload, troppe persone vogliono accedere, poi non so perché, la pagina Wikipedia, ma sì, lo stavo facendo anche io, sì, perché cercavo dei pezzi di ricordarmi quali erano i pezzi che amavo di più, a parte la classica Purple Rain, ma Mueran Humanos è il duo argentino di base a Berlino che incidono per la Old Morros Parties, appunto, Miseres 2015. Abbiamo ascoltato Un Lugar Ideal e poi attesissima, uno degli headliner che ci saranno anche a Porto, perché ovviamente quando esce la lineup di Barcellona tutti vedono Radiohead, LCD Sound System, e poi vedi che il weekend dopo stanno a Bonnaroo, ovviamente non ci possono essere, ma come abbiamo scritto nella nostra presentazione, al diavolo chi dice se non ci sono manco gli LCD non ne vale la pena. Ne vale la pena per esempio per lei, per Polly Jean, che proprio pochi giorni fa, 15 aprile, ha pubblicato un nuovo album, The Hope Six Demolition Project, che era già stata anticipata a gennaio da questo pezzo, The Wheel, che stiamo già ascoltando, e la vedrò per l'ennesima volta. Diciamo che nei primi anni della sua carriera l'ho vista veramente tante volte, ma soprattutto forse il primo grosso concerto della sua carriera nell'anno stesso in cui uscì Dry, il suo debutto discografico, nel 1992, lei suonò prestissimo nel pomeriggio a Reading e io ero sotto di lei, nel senso appoggiata alle transenne, e la guardavo cantare davanti a lei. PJ Harvey, The Hope Six Demolition Project, The Wheel. Torno sempre gradito, quello di Polly Jean Harvey. Io dico sempre, insomma, a fronte di decine e decine, centinaia di musicisti maschi osannati, quante PJ ci sono? Pochissime, troppo poche. un ritorno sempre gradito, dicevo, per questo The Hope Six Demolition Project, che è stato definito, diciamo, il Let USA Shake, una critica veramente feroce alla vita americana, alla vita politica. Infatti molti pezzi si chiamano il Ministero della Difesa, il Ministero di questo, il Ministero di quest'altro. Questo è The Wheel. L'album ci piace molto, diciamo che la England Shake, che ha avuto un consenso unanime di critica pazzesco, era un po' difficile per noi, che comunque abbiamo gusti semplici. E un altro disco che avevamo sottovalutato e che abbiamo ascoltato con grande, grande piacere e sbattimento di testa è stato quello dei Proto Martyr, The Agent Intellect, bellissimo disco 2015, quartetto noise post-punk di Detroit, formatosi nel 2008, Joe Casey, Greg Ahi, Alex Leonard, Scott Davidson. Il nome del gruppo è Proto Martire, ovvero per antonomasia il primo martire della chiesa cristiana è Santo Stefano, e non a caso infatti l'ultimo pezzo del disco si chiama Feast of Stephen, che anche come viene definita proprio la festa dedicata a Santo Stefano, il 26 dicembre. E visto che noi siamo Mightypedia, diciamo anche che la proto martire donna, ovvero la prima controparte femminile, è stata Santa Tecla. Non sapevamo veramente quale pezzo scegliere, perché tra Coward Starve, Pontiac 87, Why Does It Shake e Dope Cloud non sapevamo cosa scegliere, e alla fine abbiamo scelto Dope Cloud. That's not gonna save you, man. Mentre noi ci siamo salvate, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata dedicata al nostro Primavera Sound Festival di Porto, 9, 10, 11 giugno. Weekend più in là rispetto al classico, come era anche, insomma, rispetto a quello di Barcellona, slistati un po' più verso giugno. Riprenderemo la prossima settimana dagli ultimi quattro gruppi che completano il cartellone del venerdì, ovvero Roosevelt, Savages, Tortoise e White House.